Avanti capo pattuglia. Sta chiamando Rambo, mi. Ciao Giulio. Ciao Marco, chi è Rambo? E chi è questo Rambo? No, è tratto da un film di Rambo, è una frase. Quando il suo superiore lo chiama, che lui è nascosto nella grotta, ti ricordi il film? Sì, va bene, non fa niente. Sta lavorando allora. Beh, qua, come butta? Ne avete le tasche piene delle stazze, abbiate pazienza, domani rinfrescherà. Domani rinfrescherà, può darsi. Molto forte, sono andato a fare la spesa per comprare la carne, perché la spesa era già fatta, e c'è molto vento, però è molto caldo. Sì, no, è un po', diciamo, misto, perché è sud-ovest il vento, capito? Sta entrando un po' di ponente e un po' di scirocco misciato, speriamo che entri maestrale stanotte. Sì, vabbè. Magari le porta la pioggia, questo vento le può portare la pioggia. Sì, sicuramente, c'è chiaro pioggia lunedì mi sembra o domani sera, non so. Comunque sud-ovest il vento, qua mi segna sud-ovest. Boh, speriamo, non si sta male, è un po' fresco, un po' caldo, insomma, però... La temperatura è mite, dai, già va bene. Ok. Avanti Marco. Ehi. Ciao Claudio. Ben sentito dopo un bel po' di tempo. E qua naturalmente io sto preparando e la routine è sempre quella. Sì, c'è un ventaccio che qua mi sta stracciando le tende, adesso le devo chiudere, come dire. Tirare su. No, qua tende non ce n'è, ma io non sono a casa, no Marco. Io sono ancora accampato, già va bene, già va bene. Non sto usando un Barrett 950 SSB con l'SM20, non so se lo conosci questa radio. No, no, quello no. Ti voglio chiedere Claudio, beh, avete risolto, siccome stavo ascoltando ogni tanto, per quell'antenna lì, di quella persona, io una teoria ce l'ho, ho provato con tanti apparati di quel tipo, tante antenne, il risultato è sempre lo stesso. Scusate, mi allontano un attimo. Ehi Giulio, che risultati ci sono? Quando non c'è la tenna in corto non va, capito? Va in trasmissione ma non riceve. Ho cambiato l'antenna e va benissimo. I risultati sono quelli. Ne ho fatto delle prove e adesso va benissimo, alla grande. Ehi, sai perché, Fla? Allora, il Baofeng, in teoria, c'ha un ricevitore a larga banda, poco filtrato e tutto, no? Se uno mette una discone, in determinate condizioni il Baofeng prende colpi da ripetitori cellulari, TV, radio cittadine, è una cosa risaputa quella. Certe volte, sempre in determinate condizioni, dipende dalla zona, più performante gli emetti l'antenna e più viene assordato. Te la faccio in breve, io col ricevitore sento bene o male quasi tutti dal latte dolce. Se metto un bau bau, tutti i segnali medio-bassi spariscono con l'antenna esterna. Questo perché? Perché un ripetitore è a 30 metri. Cioè il Baofeng soffre, se si vuole avere un apparecchio che non ha problemi di saturazione di quella specie di DSP che c'hanno, con ricevente a larga banda, con ricevitore a larga banda, poco filtrato, bisogna andare su veicolari seri però, tipo Yaesu, Icom, tutta quella roba lì, perché sentivo che non riuscivate a cavarne piedi. Se tu ti ricordi tempo fa, avevo fatto una prova dal terrazzo, che non è il mio terrazzo, perché qua è di proprietà di un altro, a portare un BAO e quell'antenna famosa di cui ti avevo mandato la foto, no? La Diamond BC202. Beh, i risultati erano drammatici. Sentivo te che eri l'unico che mi ha dato un controllo, tutti gli altri non li sentivo. Cioè mettevo il ricevitore e sentivo quelli latte dolci. Mettevo il BAO e sparivano tutti, tutti. Quindi è inutile con quegli apparati pretendere più di tanto. Forse i Vauxhall vanno molto vanno meglio come stadio ricevente, però il Baobao lo paghi 25, il Vauxhall lo paghi 100 euro in Italia, capito qua? Si conferma, vabbè, non è che non è togliere un piede, io mi volevo convincere che fosse effettivamente l'antenna, infatti ho fatto il piede nuovo a tutte e due, sia sopra che sotto. Il risultato non ha cambiato col discone, poi ho tolto il discone e ho messo un altro tipo di antenna e adesso va bene, capito? Adesso va benissimo alla grande. Questa è una radio americana, tu immagini che questa c'è anche il GPS, GPS, DMR e un HF, americano, Barrett 950 SSB, abbastanza costoso anche, me l'ha fatto avere un amico usato e va molto molto bene, tutto completamente digitale, non ha manopola di VFO, niente, in pratica tutto via computer, capito? Guardatelo, Barrett 950 SSB, bellissima radio, se vuoi ti mando la foto, molto bella, scusate che c'ha due potenze, 120 watt e 25 watt, non ha l'FM naturalmente, ha l'SSB e la M, e la M c'ha 120 watt, io adesso lo sto usando a 25 watt. Ma quello azzurro con i tasti bianchi e quel display sul giallino, con la cornice gialla, incredibile, sembra quegli apparati che usa tipo Gianfranco, no? Che ha quell'hobby di quegli apparati là. Vabbè, l'ho fatto avere lui. Sì, è quello azzurro con il display tutto illuminato, tutto frequenzimetro, eccetera, eccetera. Parla pure, figurati. Qualsiasi cosa puoi scrivere nel display, GPS, tutto il sistema satellitare, tutto dalla alla Z, ma la radio mai vista in vita mia, in 40 anni la radio non l'avevo mai vista, ma lui è appassionato di queste cose. E io, siccome c'è il connettore 8, ho provato vari microfoni, però prima di inserirlo, sia ICOM che Kenwood, Yaesu, ho attaccato il dietro sulla porta USB, no? Il vecchio DB9 così chiamato, collegato al computer, e andando sul menu ti fa vedere tutto la videata nel computer, quindi sono andato a vedere i miei piedini, l'alimentazione dei piedini ti corrisponde a quella sia del Kenwood che della ICOM, Yaesu, no? Sono tutte e due uguali perché c'ha due connettori, uno da una parte e uno dall'altra, in uno ci va Kenwood, dall'altra ci va ICOM, figurati tu che culo. E sto usando l'SM20, che diciamo è meno ingombrante, dai. Eia, sì sì, interessante. E poi già il fatto che abbia il GPS, sicuramente quella o è una radio che magari è tipo uso militare, oppure in uso alla banda marina aeronautica. Perché lo sai che in HF lo stesso c'è una frequenza di emergenza sulla banda marina, no? In banda laterale. Poi sono apparecchi magari non nuovissimi, però se tenuti bene fanno il loro lavoro, dai. Va bene, io adesso inforno la pizza e poi dai, ero entrato per un saluto e veloce, tanto così tre giornate sono uguali, vabbè, non mi voglio ripetere qua. Dai, ci sentiamo, buon proseguimento di serata, senza qualcuno e... Ah, ieri stavo seguendo anche la portante, annullava tutti. invece ieri con la portante annullata qua, muto, proprio scomparivano tutti, tutti. E a quanto ho capito non ci riuscivo a modulare nemmeno tra di voi. Quella roba forte, alto livello, Ma stai parlando del PMR, perché io non c'ero a casa, quindi non penso al 27. Ma quella portante che c'era in PMR è 600. Sì, ieri è così, tra una cosa e l'altra era un po' l'ascolto di passaggio. E mi faceva ricevitore muto. Copriva tutti, e guarda che arrivano forti molti lì, E vabbè, un seguito di portanti in questi giorni, un po' qua, un po' là. Uno strascico di portanti, un po' qua, un po' là. Non se ne esce, dai. E infatti questo hobby è un po' sciupato, no? Non c'è futuro, dai, però 27. Ma non mi interessa mai, Marco, io sono nelle mie, se si può modulo, se non si può pazienza, non mi interessa più niente, non voglio vincere più con nessuno e non voglio che nessuno mi rompa le scatole, soprattutto che stavolta mi incazzo veramente. Ascolta, la modulazione ti piace, va bene? Sì, per questo ricevitore, cioè per questo baracchino che riceve toni un po' alti, benino, magari non da K, però più che, cioè, capibilissima, buona. Se avessi una tonalità un po' più bassa sarebbe più calda, capito? Non lo so, parlato anche con Gianfranco, ma non lo so come bisognerebbe inserire il cavetto, controllare il computer se si può, stavo cercando un filtro più stretto, io perché è un bel larga, se entra gente con l'eco, con amplificati alti, non capisco un accidente, devo cambiare radio, capite? Però è veramente molto molto bello, eccezionale, una ricezione da favola. Per il microfono per il momento non posso fare niente, poi vediamo se riesco a migliorare, perché già so che c'è troppi acuti. Comunque l'importante sia chiara, forte, insomma comprensibile, poi non fa niente. Va bene, dai, ti lascio andare a mangiare allora, buon pranzo, ci sentiamo più tardi se coincide, dai. Per il momento io mi sto godendo un po' di fresco, ok? Ciao. Ciao Claudio, buon proseguimento di serata, dai. E sentiremo quando capita, tanto tu mi attacco alla TV e sto diventando un pantofolaio, brutto. Va bene, alle prossime, ciao a tutti, ciao. Ciao Giulio, sei rientrato. Ciao. Marco, le prossime. E mai Gianfranco. Niente, stavo guardando il canale, visto là che è passato, sì, ho fatto parecchi lanci. No, non ho visto niente, la verità, perché sono dentro, c'è un bel fresco, poi c'era vento caldo, quindi non sono uscito, perché c'è incendio da qualche parte. Io l'ho visto un po' da lontano, però ho visto gli sganci che faceva tutta una nuvola di acqua che cadeva. Mi è sembrato nei pressi di Ploaghe, quella zona lì. Per quello c'è sto vento caldo. È allucinante cosa stanno incendiando, cosa stanno facendo, cazzo, chissà che ci diano una calmata. C'è gente tanto peggio tanto meglio, cioè non le basta mai. Ma cosa serve? Cioè stanno distruggendo tutto, il pascolo, stanno mettendo in crisi l'agricoltura, capito? Infatti non vedo l'ora che inizi a piovere come Dio comanda, perché è assurda una cosa del genere. È assurda. Io l'altro giorno sono andato a Olbia, ma cioè Olbia vicino a Olbia, diciamo, beh. Ma cazzo, è tutto incendiato, tutto nero, un casino. Purtroppo c'è questa gente perché è tutto paloso, e poi non è a dire autocombustione, cosa del genere, è tutto paloso. Ci sono queste persone, non so cosa vogliono ottenere, e non saranno tutti dei malati, piromani, no? Dove ti dico? Aspetta un secondo, Gianfranco. Ciao Gianfranco. Marcolino, ma no, non sei andato a fare colazione? sto per fare colazione. Lui, una scena, ecco. E comunque sta diventando patologica la cosa dell'insonnia, è veramente... Non so cosa pensare. Anche perché io prendo roba anche pesante per dormire. Nulla, non mi fa più effetto. Se vuoi te la do io gratuitamente una cosa, non c'è effetti collaterali, perlomeno all'interno, all'esterno magari si vede un po' con la tinta. Un colpo in testa col martello di Thor. No, non è di Thor, è di gomma, di quelli pesanti di gomma, in modo da non fare troppo male, sono t'ammazza, quello in ferro t'ammazza. Quello di gomma, l'unico problema è che lo devi graduare, perché tu dare dei colpi finché fa effetto, quando non ci riesci più a dare i colpi allora sei a posto. Sì, proverò così me, ma... Anzi, la TV una volta mi conciliavo, pure la lettura di un libro, adesso non lo so. Fai che sia anche il caldo, che ne so io, eppure una volta che apri qua, è bello ventilato, di notte il fresco entra, eppure niente da fare. Va bene, dai, sono i fornelli. Gianfra, dai, ti saluto. Non ti invidio di certo con questo caldo, con questa temperatura. Poi stessi anche il fatto di questi orari, comunque, dovresti mangiare più regolarmente, orari più umani, e diminuire soprattutto la televisione che togli anche la vista e ti fa la testa quadrata praticamente. Ok, buona colazione allora. Sì, vabbè, dai, non mi preoccupo, tanto non durerà a lungo, dai. Mi auguro che sia nel senso che guarirà e non in altri sensi, dai. Non sia a quel punto. Claudio, ci sei ancora? Sì. Cosa stavi dicendo, Gianfranco? Non ho capito. No, ho detto se ci sei ancora, tutto lì. Ehi, mi ha chiamato, mia moglie, quindi mi sono spostato. Comunque, ho chiamato quelli lì e finalmente sono riuscito a entrarci in contatto. Mi hanno detto che già l'accettano. Ma quale, il 7400 o quella che è in scatola? O quell'altra roba? No, quello che è in scatola non ne vale la pena, capito? Anche se c'ha meno di un mese, il prezzo è talmente basso che costa più la spedizione che il coso, capito? Idem anche per lo strumento roba professionale non ne vogliono roba da 13 in modo da poter smaltire, perché loro adesso ci devono guadagnare almeno dalle 100 alle 200. E di prezzo ho provato a tenere, no? Sei troppo amplificato, hai detto il... Aspetta, sto usando l'altra radio, ho tolto il processore. Ho detto di prezzo ho parlato, tenia. Sì, intorno ai 5. Intorno ai 5? 500? Sì, confermo. Dopo ovviamente che è perfetto, che l'hanno controllato che è perfetto. Vabbè. Vabbè, fallo. Cosa stai aspettando allora? Fallo subito, chiamami, ci mettiamo d'accordo, fallo subito, non stare lì a cincischiare, mandagli a ciccia. Non è offerta, non è una cifra che mi scompone più di tanto, non è, con la calma, io ho avuto offerta con quei due e ho preso una bidonata. Quindi infatti stavamo parlando di quei due, perché ho detto sì, lo sappiamo. Ma anche lei non può paragonare la marca che c'ha praticamente con questi qua che sono giocati. E quindi è chiaro che non vanno bene a usarli con quelli che ha già. E ho detto, vabbè, la speranza è l'ultima a morire, comunque no, tu ci provi se vanno bene o no. Però è così. Tu fidati che neanche li vogliono, quelli che ho io, l'ho detto, se volevo qualcuno, perché ne ho tanti, ma ha detto no, perché tanto la gente non sono costretti a venderli cari e la gente non capisce cosa stiamo vendendo, ecco. Aspetta che ti chiamo un attimo, che ti voglio dire una cosa, un secondo.